Welcome to the Yene English course. English, no problem with Mr. Brown. Nel tuo curriculum come metteresti? Inglese? L'inglese conoscenza? Lo sai che la mia è... No, tu buona. Ma figuriamoci. No, buona, ma lo sa... io metterei zero. No, no, quella proprio, diciamo, del supermercato a New York, se dovessi sostenere un colloquio di lavoro in inglese non sarei... Neanch'io. No, no, no, vabbè. Lo dico, lo ammetto. Ma qualche... noi saremo qua in Italia, facciamo altro. Facciamo insomma. Altro. Nel frattempo facciamo... impariamo bene l'inglese. Sì. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Nasconde un dolce segreto, aspetta un bambino. La domanda corre di bocca in bocca, di giornale in giornale. Sui tabloid inglesi fervono gli annunci di una nuova gravidanza della contessa di Cambridge, che quindi diventerebbe di nuovo mamma a poco tempo di distanza dal parto di George, che compirà 2 anni il prossimo 22 luglio. Tra qualche settimana il segreto sarà svelato della serie, se sono indizi fioriranno. Ma non di Kate né di gravidanze, ma di segreti parleremo oggi. Il segreto intriga, ci attira, ci incuriosisce, perché l'uomo è un animale curioso e naturalmente orientato a conoscere, a svelare, a scoprire quello che per ragioni diverse è nascosto o tenuto nascosto, protetto un po' da occhi indiscreti, segreto per l'appunto. Chi è senza segreti scagli la prima pietra, e chi riesce a mantenere un segreto resistendo alla tentazione di comunicarlo ad altri si accomodi. Potremmo usare questi due stimoli per iniziare la diretta di oggi, in cui proveremo a declinare la parola segreto in diversi ambiti: amore, relazioni, amicizia, lavoro. In studio con me è tornato a trovarci il dottor Luigi Ballerini, medico, scrittore e psicoanalista. Buongiorno. Buongiorno. Dottor Ballerini, dove c'è da scoprire un segreto, l'attenzione resta viva. Ah, resta vivissima. Vediamo come è diventata anche una tecnica narrativa. Pensiamo a ogni volta che c'è un libro o un film dove c'è una scatola o una busta che deve essere aperta, e insomma siamo lì, a volte addirittura il film è tutto teso per i primi 20 minuti per scoprire cosa c'è dentro quel pacco. O ad esempio pensiamo nelle serie TV. La tecnica si chiama tecnicamente cliffhanger, è un qualcosa che ci tiene aggrappati. L'esempio classico è: si apre una porta, qualcuno entra nella stanza e farà qualcosa di decisivo, ma pam, a quel punto parte il nero della pubblicità. Questo è proprio un aggancio che ci tiene lì, e ci guardiamo tutta la pubblicità pur di vedere subito, certo, il segreto di chi entra in quella stanza. I curiosi restano e siccome siamo tutti un po' curiosi, certo, restiamo in tanti. Ma in effetti, dottor Ballerini, quelli del segreto è un fenomeno delicato, direi complesso, che ha anche tante declinazioni. Succede una cosa strana: noi siamo gelosi dei nostri segreti, della nostra privacy, ma difficilmente resistiamo alla tentazione di scoprire quelli degli altri. Facciamo anche molta fatica a tenere un segreto che ci è stato confidato. E c'è di più. Pur avendo qualche segreto, perché tutti noi ne abbiamo, ci offendiamo, ci sentiamo in qualche modo traditi se scopriamo che una persona a noi cara, un partner, un'amica, un collega con cui abbiamo particolari affinità, ci ha tenuto all'oscuro di qualcosa. Se ti fidi, si dice, non devi avere segreti, se mi ami devi dirmi tutto. Oh, questa è proprio una questione che torna fuori in molte coppie. Se mi ami devi dirmi tutto, se mi ami io devo sapere tutto di te. Sappiamo che già questa è una menzogna. Innanzitutto non è possibile sapere tutto di un altro, perché l'altro mi farà sapere quello che mi dice, e anche perché noi cambiamo così tanto che pensa quanti pensieri abbiamo, certo, no? In pochissimo tempo che ci girano in testa. Ma poi davvero la questione è che cosa mi serve sapere tutto. In una coppia, anzi può essere persino rischioso a volte entrare in questo atteggiamento del devi dirmi tutto. Teniamo presente che la stessa dinamica può accadere anche fra mamma e bambino, no? Tra un genitore e un figlio, la mamma deve sapere tutto. Ora, io sono più propenso a pensare che la mamma può sapere tutto. Allora, che il figlio si sente in una condizione di libertà tale per cui possa dire sai che è successo, mi è successa questa cosa, ho questa paura, ho fatto questo incontro. Che poi ci sia l'obbligo o la necessità di dire sempre tutto, sinceramente non lo credo. Credo che per la maggior parte di noi sia vera l'esperienza che non abbiamo detto tutto ai nostri genitori e andava bene anche così. L'importante è che ciò che conta noi possiamo dirlo. Allora, ditemi voi, 800 24 00 24, siete una persona che nasconde segreti, come vivete questa situazione? E soprattutto, cos'è accaduto quando avete confidato un segreto? Vi siete sentiti sollevati, capiti o piuttosto incompresi, magari presi in giro, sminuiti, insomma, lo rifareste? 800 24 00 24. Devo inventarmi qualcosa di grosso per farmi notare dai circoli studenteschi. Perché? Perché sono esclusivi, divertenti e ti cambiano la vita in meglio. La gente vuole andare su internet per sapere cosa fanno gli amici. Serve un sito web che glielo permetta. Amici, foto, profili. Voglio prendere la vita sociale dell'università e metterla online. Il sito ha avuto 2200 contatti in 2 ore. Di più, ne ha avuti 22.000. Allora, dottor Ballerini, a me pare che i social network, penso che sia un po' una considerazione comune, abbiano cambiato molto, direi quasi radicalmente, la nostra percezione della confidenza, posto tutto in bacheca per tutti. Allora, che cosa nasconde secondo lei questo bisogno, forse è un piacere più che un bisogno, di raccontare tutto a tutti dei fatti propri? Ma condivido questo giudizio sul fatto che Facebook in particolare ha cambiato la nostra percezione della confidenza. È proprio una questione di percezione. Ho incontrato recentemente una ragazza che so che in un momento in cui era molto arrabbiata con sua mamma perché non l'aveva fatta uscire per una festa sabato sera, insomma ha scritto qualche cosa di non carino e né gentile sulla mamma su Facebook. A che le ho detto, senti, quanti contatti hai? 700. Dico, ok, allora immaginiamoci questa scena. Tu abiti al terzo piano, esci dal balcone, ci sono 700 persone, tu ti saresti messa a declamare quella di mia mamma, non l'avrei fatto. Allora, il fatto che i nostri ascoltatori su Facebook sono nascosti e noi non li vediamo ci altera un pochettino questa percezione e il rischio è quello che diciamo di noi troppo. Diciamo di noi troppo, questo avrà un'implicazione sulla sicurezza, certo. Diamo tantissime, pensiamo ai ragazzi, no? Dicono quando mamma e papà sono via, quando restano soli, i luoghi che frequentano, la piscina dove vanno, gli amici che incontrano, anche le cose gli adulti che fanno. Raccontano spesso. Lo fanno anche gli adulti. Allora, l'esito è che noi rischiamo di dire troppo e soprattutto perdiamo il concetto della confidenza, perché la confidenza è lo dico a te, scelgo te, no? E lo dico solo a te. Perché ti ritengo meritevole e degno di sapere questo mio segreto. Ecco, è davvero cambiata la percezione e dobbiamo stare attenti perché il mezzo, soprattutto Facebook, ci prende un po' la mano e ci confonde un po' le idee. In America, tra l'altro, va molto forte un'applicazione che è l'esatto opposto dei social più tradizionali. Si chiama Whisper e possiamo definirlo il social network dei segreti 2.0 perché si pubblicano i propri pensieri senza bisogno di registrarsi. Tutto avviene nel più stretto riserbo e questo permette forse una libertà di espressione altrimenti più difficile. Anche in Italia però è arrivata un'applicazione simile, si chiama Secret e ha più o meno lo stesso scopo. Mi chiedevo, dottor Ballerini, perché queste Whisper e Secret hanno tanto successo? Forse perché ci si libera da un peso senza misurarsi col giudizio? Perché a volte le cose non si dicono proprio per paura di essere giudicati. Allora, se però ti pesano, allora io me ne libero, mi chiamo, non so, Candelina Gialla, dico quello che ho sul cuore e che magari faccio fatica a gestire e a sopportare, lo butto fuori. Nessuno può giudicare, nessuno mi può giudicare perché non sanno il mio nome e così forse mi sento alleggerito senza pagare troppo il peso di questo alleggerimento. Credo anch'io che la chiave del successo sia in questo liberarsi. Anche qua dobbiamo stare attenti però, perché è una soddisfazione che dura poco e anche di poco conto, quello del puro liberarsi di un peso. Manca, rispetto alla questione della confidenza che dicevamo poco fa, manca la condivisione e manca soprattutto il rapporto, perché a volte raccontare qualcosa di anche di penoso o di importante che non vogliamo che gli altri sappiano, ma almeno raccontarlo a qualcuno, a me piace pensare che è come portare una cesta in due. Sì. Portiamo un manico a testa e diventa più leggero, piuttosto che dover fare tutto da solo, ma serve l'altra mano che porta la mia cesta. In un ambito così segreto dove io lo dico, ma in realtà lo dico al vento, quindi non lo dico a nessuno, ci sarà la dimensione dello sfogo, ma mi manca poi tutto ciò che di buono potrebbe venirmi da un rapporto. E allora il secondo stimolo che vogliamo lanciare alle ascoltatrici e agli ascoltatori è di dirci, di raccontarci se Facebook ha cambiato il vostro modo di trattare i segreti. Si dice che Facebook sia pettegolo, sia riveli tanto degli altri. Voi avete mai fatto scoperte che non vi aspettavate sui social riguardo ai vostri amici o anche compagni? Avete scoperto qualcosa che non vi era stato detto e che vi ha ferito? E vi siete sentiti traditi? Perché, dottor Ballerini, parliamo anche dell'esperienza del tradimento. Tutti noi abbiamo fatto esperienza di un tradimento fatto o subito rispetto ad un segreto, e la nostra buona fede e la nostra amicizia, direi, è stata tradita. E noi abbiamo fatto anche noi la stessa cosa, rivelando magari a un altro qualcosa che dovevamo tenerci per noi. Però facciamo fatica a tenerci i segreti degli altri. Perché facciamo questa fatica? Forse perché confidando un segreto ad un altro creo una nuova relazione? Il segreto confidato, ti dico una cosa, guarda, l'ho saputa, la dico solo a te, crea un nuovo legame, una nuova amicizia? Allora, il rischio di creare una nuova amicizia a scapito però di un altro rapporto già esistente c'è. Perché dà l'impressione di questo immediato legame di un cicciac che avviene in questo momento fra me e te, il rischio però di compromettere qualcosa che magari c'è anche di più duraturo altrove. Il rischio del tradimento non è solo anche nel rivelare qualche cosa, ma ad esempio ci sentiamo traditi anche quando ad esempio diciamo qualcosa che per noi è così pesante e l'altro ce lo sminuisce un po'. Sì. Bisogna saperlo raccogliere un segreto. Non bisogna ascoltarlo e bisogna anche capire che magari quello che ci viene raccontato con pena, che sembra un peso incredibile per l'altro, ai nostri occhi sembra magari un po' più una sciocchezza, sinceramente, bisogna saperlo raccogliere, perché l'esperienza di delusione che l'altro può ricevere è proprio quando noi non lo capiamo, quando diciamo sì, ma dai, ma cosa stai a guardare? Il ma sì, ma dai, cosa stai a guardare deve essere fatto con delicatezza, e allora sì che sarà un arricchimento, perché allora io ti racconto qualcosa che per me è pesante e visto tramite i tuoi occhi allora mi puoi aiutare a dire ma sì, ma sai che forse hai ragione, che in fin dei conti forse è un po' esagerato, forse è un po' gonfiato. Allora, se avete un segreto che vi pesa nel cuore, volete parlarne con noi, 800 24 00 24, perché come anticipava il dottor Ballerini, forse parlando alcuni segreti, alcuni pesi si riducono e si vedono sotto un'altra prospettiva. Ed è un pasticcio quando noi siamo nell'ottica del non lo dirò mai a nessuno, non dirò mai niente a nessuno, tengo tutto per me. Beh, di solito ci mettiamo nei pasticci. Il segreto esiste perché è comunicabile, se non fosse comunicabile non sarebbe un segreto. Certamente. Voilà, Totò da Palermo, buongiorno. È caduto, era lì sul punto di raccontarci un suo segreto e invece Totò è caduto, ce lo racconterà tra poco, lo ripescheranno dalla regia. La parola segreto a volte fa rima con un altro termine in inglese che però ormai è entrato a tutti gli effetti nel nostro vocabolario, privacy. Anche Michael Jackson cantava di aver bisogno della sua in questa canzone, ma non c'è bisogno di essere persone famose o grandi star per sentirsi invasa o violata la propria privacy. Basti pensare ad alcuni studenti che hanno avviato un contenzioso con l'Università di Roma 3 perché si sono accorti che bastava inserire il proprio cognome su Google per risalire al loro codice fiscale, attività di studio, posizione lavorativa e retributiva, e ieri la Cassazione ha proprio fatto sapere che valuterà la gravità di questa vicenda e noi vedremo come andrà a finire. Se scuola e università però sono istituzioni che dispongono di dati privati e sensibili, ancora più delicata è la questione sul posto del lavoro con colleghi, capi. Ma insomma, bisogna fare attenzione a cosa dire, cosa non dire della propria vita personale. Allora, vi è capitato che rivelare qualcosa di voi vi abbia causato delle conseguenze sgradite, vi abbia messo un po' in imbarazzo? Siete magari indecisi se raccontare o meno qualcosa del vostro privato sul posto di lavoro? Consideriamo che stiamo al lavoro gran parte della giornata, delle 12 ore di luce a disposizione, 8 ne passiamo proprio insieme ai colleghi di lavoro. Allora, 800 24 00 24, ne parleremo nell'ultima parte della trasmissione. C'è un diavoletto nel tuo cuore, c'è un diavoletto chiuso dentro di te, lui si nasconde con il sole, la notte poi si prende gioco di me, si prende gioco di me. C'è chi poi mantiene un segreto rispetto ad una malattia. Sono di solito le malattie non visibili, quelle che possiamo benissimo tenere nascoste perché tanto non si vedono. Mi stai dicendo che hai tenuto nascosto che hai l'epilessia per tutti questi mesi? Veramente non hai trovato nessuno che meritasse di saperlo? Deglutisco e faccio sì con la testa. Cioè sì che non l'ho detto e no che non l'ho trovato. Dovresti chiederti perché lo hai fatto. Stringo i pugni che tengo nascosti dietro la schiena e rispondo un secco: non c'era bisogno di dirlo. Se lo hai fatto per discrezione lo capisco, ed effettivamente non ce n'era bisogno, come hai detto tu, ma non è che te ne vergognavi? Perché se è così, la questione è ben diversa e dobbiamo parlarne. Click, un libro fresco fresco di stampa scritto dal dottor Ballerini, il suo ultimo romanzo, edito da Mondadori, Edizioni L. Chissà perché mi è venuto Mondadori, ma magari il prossimo. Sono due grandi editori. In cui lei affronta un segreto tenuto nel cuore per paura di essere rivelato, per paura del condizionamento del giudizio degli altri. Dottor Ballerini. Sì, Click è un romanzo che viene classificato ormai dentro questo filone che si chiama YA, che sta per Young Adults, quindi è quel filone di letteratura che si occupa dei giovani adulti, che parla di e ai giovani adulti. Giovani adulti è adesso la nuova categoria che è più 14, ma sinceramente è una categoria un po' di marketing che è stata creata. Io credo che un libro per più 14, poi se va bene per un 14enne o un 17enne va bene per tutti, certo. Quindi va bene anche per un adulto. La storia narrata da Click è la storia di un ragazzo di seconda superiore che improvvisamente, mentre tutti si stanno spogliando per fare ginnastica in palestra, lui inizia a non sentirsi bene, va in bagno, cade per terra e ha una crisi epilettica. La scoperta della malattia, che lui non conosceva, per cui poi si va a informare come fanno oggi i ragazzi, vanno su Wikipedia, su internet, vanno a prendere informazioni e a volte anche informazioni scorrette, lo genera in uno stato di difficoltà e anche di prostrazione, perché questo diventa il suo segreto. Ha paura di rivelarlo, ha paura di che gli altri inizierebbero a guardarlo in modo diverso. E come accade a volte, quando noi abbiamo un segreto così grande che ci pesa così tanto, alla fine lo diciamo a qualcuno, lo dice al suo migliore amico. E come a volte accade, il migliore amico fa un cattivo uso di questo. per cui lo racconta alla persona peggiore che poteva incontrare nella sua scuola, il cosiddetto bulletto della scuola, che si fa chiamare Bro, il Benetti, e il Benetti inizierà a ricattare Cesare, che è il protagonista di Click, per questa situazione. Ecco, volevo raccontare, in realtà questo libro è stato pensato per dei ragazzi che ho incontrato che vivono questa dimensione, quindi una malattia cronica che non è visibile, quindi non è una menomazione, che tuttavia viene tenuta nascosta. E ho visto la difficoltà, la sofferenza, quando a volte lavorando con loro dicevo: ma cosa c'è poi da tenere nascosto? Cosa c'è da vergognarsi? E allora, dedicato a loro, è venuta fuori questa storia. È dedicato anche alle persone che tengono segreta una loro malattia per paura di raccontarla, per paura anche dei pregiudizi che a volte segnano ancora una malattia. Lo sappiamo che l'epilessia, ad esempio, è nota sin dai tempi dei babilonesi, eppure nonostante i secoli non è ancora riuscita completamente a scrollarsi di dosso tutta una serie di paure e di pregiudizi. Cuore e denari. Non lo dirò a nessuno, lo terrò lì nascosto, senza lasciare segno, il segno in nessun posto. Eccoci di nuovo insieme, oggi parliamo di segreto, di segreti. Voi che tipi siete? Sapete mantenere un segreto? Vi confidate con qualcuno in particolare? Siete bloccati da un segreto che vi pesa, che vorreste confidare ma che non riuscite a fare perché avete paura del giudizio, perché è troppo faticoso, perché forse non avete trovato la persona giusta con cui farlo, non avete trovato la giusta misura della confidenza? 800 24 00 24, ci sono segreti dolorosi, segreti che conserviamo nel nostro cuore per paura di essere etichettati dagli altri, messi da parte. È un po' la storia di Cesare, protagonista del nuovo libro di Luigi Ballerini, si intitola Click, edizioni L, non racconta la sua malattia, la tiene segreta e soffre di epilessia. Dottor Ballerini. Sì, la tiene segreta e nascono dei pasticci da questo tenerlo segreto. L'aiuto sarà dato proprio da una persona, da un adulto buono che gli pone la questione dicendo: senti, ma perché? Perché la tieni segreta? Che cosa può succedere? Che cosa temi? E gli rivela anche il fatto che una volta che gli amici lo sanno, è fatta, no? Certo. È fatta. Nel senso che stare anche a te poi, non farti trattare da epilettico, anche perché poi cosa vuol dire da epilettico? E allora interverrà il migliore amico di Cesare, che proprio aiuterà gli altri e scriverà una lettera a questi compagni dicendo cosa vuol dire avere un amico epilettico, ossia vuol dire avere un amico, punto, al fatto che epilettico ci pensa lui. Molte persone mi stanno anche scrivendo, ascoltatori, ad esempio un ascoltatore da Lucca che mi scrive: se è pesante nascondere, no? Una malattia, e sono malattie che puoi nascondere proprio perché non si vedono, quanto immaginatevi cosa può essere per chi ha una malattia che si vede. Vogliamo parlare proprio anche di questo all'800 24 00 24. Ma lo spunto ti viene suggerito dalla storia di Cesare, che ha una malattia che non si vede, che può tenere nascosta, ma ancora a fonte di tantissimi pregiudizi, nonostante sia una malattia che è conosciuta dai tempi dei babilonesi. La ricerca è andata molto avanti e continua a farlo. Per le ultime news potete anche andare sul sito della LICE, che è la Lega Italiana contro l'epilessia. Noi vogliamo parlare anche di ricerca e qui in studio abbiamo il piacere di avere Maurizio Meli, se voi lo conoscete benissimo, divulgatore scientifico e conduttore di Smart City in onda ogni giorno alle 20:50. Maurizio, ciao. Ciao, ciao Nicoletta, buongiorno a te. A proposito di segreti, il cervello è stato per secoli un mistero, poi a poco la ricerca ha svelato tutti dei meccanismi, ha svelato tutti questi segreti del cervello, ma come sempre tanto si è fatto, ancora tanto c'è da fare, ma ci sono delle buone novità, delle cose interessanti anche per l'epilessia. Sì, cioè, beh, intanto diciamo appunto sul cervello rimane questo grande mistero, perché non riusciamo ancora bene a capire che cosa ci consenta passare dal cervello alla mente, no? Alla coscienza. Sì. Ecco, lì c'è ancora tutto più o meno da capire. Però abbiamo un bel po' di altre cose invece le abbiamo capite. E una cosa, per esempio, che si sapeva dell'epilessia, allora immaginate il cervello come una specie di albero di Natale con tantissime lucine. Sì. Quando funziona si accendono un certo numero di lucine, un centesimo di secondo dopo sono accese delle altre lucine e così via. Quando arriva la crisi epilettica è come se una di queste lucine prendesse il sopravvento, diciamo, cominciasse a pulsare e tutto l'albero gli va dietro. Sì. Si sa che si vede questa cosa quando c'è la crisi epilettica. Uno dei modi per fermare questa roba è mandare degli impulsi al cervello che bloccano questa roba. Allora, di recente è stato presentato un oggetto che 15 anni fa era considerato il santo graal della bioingegneria, direi. La prima, un'interfaccia neurocorticale permanente wireless. Cosa vuol dire? Allora, si prende questo, uno scatolino di un centimetro cubo con attaccati tanti sensori, un foglio con tanti sensori che vengono appoggiati sulla superficie del cervello, proprio sulla corteccia. Sì. Questo apparecchietto è in grado di comunicare wireless e quindi dall'interno del cervello, della scatola cranica, si ricarica dall'esterno, per cui può rimanere lì permanentemente, manda i segnali elettroencefalografici, quindi si legge costantemente il tracciato prodotto dal cervello, e contemporaneamente questi elettrodi consentono anche di mandare degli stimoli. Allora, per esempio, questo apparato, che tra un anno o due probabilmente si comincerà a testare sull'uomo, quindi trial clinico, siamo veramente vicini a questo punto all'applicazione. Ecco, questo apparato, una delle cose che permetterà, che potrebbe permettere di fare, è trattare casi di epilessia che non si riescono a trattare in altro modo, perché mi sembra ovvio che è più invasivo che un farmaco, una roba di questo genere. Certo. Cioè sarà possibile installare questo apparecchio, e quando sta arrivando la crisi epilettica, questo apparecchio manda delle piccole scariche, diciamo, che la disinnescano, almeno questa è una delle cose che si potranno fare. Tu dici proprio, Maurizio, una delle cose, perché sì, se ne potranno fare altre. Si possono fare delle cose molto interessanti. Appunto, sono da anni che si cerca il modo di mettere in connessione il sistema nervoso con qualcosa di elettronico che viene a valle. Pensate, una delle cose più difficili da fare è riparare il sistema nervoso. Tutt'oggi, quando c'è una frattura ossea, la si ripara, ma quando viene interrotto il midollo spinale si resta paralizzati. Allora, una cosa che si può fare, per esempio, è questa. Questo apparecchio, immaginate che venga posizionato opportunamente, vuol dire che questi elettrodi vanno su una zona particolare della corteccia cerebrale, che è la corteccia motoria, cosiddetta. Allora, questo apparecchio è in grado di registrare i segnali che il cervello manda, i comandi che manda, per esempio muovi il dito tale, muovi il polso, eccetera, eccetera. Quindi potrà essere utilizzato, per esempio, per una persona che ha perso un braccio, per consentirle di muovere una mano, o un paraplegico, per muovere un intero esoscheletro, come si chiamano queste apparecchiature che possiamo portare addosso, che consentono, restituiscono appunto la mobilità a chi per esempio è paralizzato. Quindi si apre uno scenario veramente, come dire, immenso dal punto di vista applicativo. Che quando tu studiavi bioingegneria sembrava molto lontano, sembrava molto lontano, invece insomma sembra che, e tra l'altro non so se si può dire, ma sono stati degli italiani a sviluppare, diciamolo, questa roba, sono stati degli italiani qua vicino, è stata un'azienda che si chiama Abimedica, e al Brain Day organizzato dall'amministrazione Obama, che una volta all'anno organizza un incontro per fare il punto sui progressi sulla compressione del cervello, questo, il direttore scientifico di questa azienda, è stato l'unico straniero invitato. Loro hanno sviluppato questo apparato e il consulente scientifico della Casa Bianca pubblicamente ha detto: io ho dato 250 milioni in finanziamenti e nessuno mi ha portato una cosa di questo genere, neanche lontanamente. Quindi, facciamogli l'applauso, facciamocelo anche un po' noi. E grazie a Maurizio Melis, che con grande chiarezza ci ha spiegato delle cose molto difficili. Prima ha fatto, non voglio avere segreti, prima ha fatto un test su di me e ha detto, vero? E ha detto, guarda, Nico, cerca di capire bene. E allora ha detto, ok, allora ci siamo. Speriamo di esserci spiegati. Grazie a Maurizio, grazie. L'appuntamento a Cosmar City arriva tra poco alle 20:50. Sì, anche se adesso siamo in vacanza, da settembre con la programmazione nuova. Grazie Maurizio, e noi andiamo a Modena, c'è Clara e poi Maurizio che ci chiama da Milano, e poi vi aspettiamo, leggeremo anche i vostri messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666 a proposito di segreti che pesano, di cose che dobbiamo tenere nascosto. Mi scrive un ascoltatore: pensate cosa vuol dire nascondere la propria omosessualità. Ne parliamo tra poco dopo Clara e Maurizio. Clara, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qui. Lei ha segreti o si confida? Ma ecco, per quello che è stata la mia esperienza di vita, perché insomma diciamo ho 60 anni, non sono una ragazzina, è che condividere le cose con qualcuno è molto importante, penso. Certo che bisogna fare la differenza, insomma, che segreto è segreto fino in fondo forse non si può dire, però fidarci di qualcuno che sia la persona che tu pensi, insomma, sia quella che più ti si avvicina anche come modo di essere, di sentire, parlare delle cose che uno prova dentro. Bisogna cercare la persona giusta. Di chi si fida? Di chi si fida lei, Clara? Ma io la gamma è ampia, non in numeri di persone, ma il genere di persone. Sì. Un'amica, detta così, che ha condiviso, entrambe abbiamo condiviso delle cose importanti perché dolorose, diciamo. Poi c'è anche la gioia, e quella è più facile condividerla. Ma anche in ambito proprio curativo, diciamo, fidarsi di qualcuno che per esempio rispetto a una malattia che può non essere vista esteriormente, ma che tu hai dentro, e più ti chiudi e più diventa pesante, la paura aumenta, ecco. Grazie Clara. Allora, la parola di Clara è fiducia. Condividere, ritorna all'immagine della cesta, che è più facile, meno pesante da portare in due. Andiamo a Maurizio da Milano per lasciare anche spazio ai nostri ascoltatori, 800 24 00 24, per chiedere poi un commento al dottor Ballerini. Maurizio, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Maurizio. Lei sì. Di chi si fida, Maurizio? Mi scusi, perché tanto che lo chieda lei ci penso anch'io per me. Allora, io mi fido della verità, cioè non so se... cioè la verità che in natura esiste, però non viene, diciamo... cioè, mi fido delle cose vere. E diffido delle cose finte, appunto il discorso che io volevo introdurre. Sì. A 11 giorni compie un anno la strage dei pellegrini di Padre Pio, perché non si doveva andare in quei luoghi perché lì c'è il non Dio. Quindi questo non è un segreto, ma è un discorso che io... Vabbè Maurizio, io su questa strada non riesco a seguirla. La nostra è un'occasione per confrontarci, no? Con il tema del segreto, che vuol dire anche della confidenza e della fiducia. Cuore e denari. Eccoci qua, siamo tornati insieme, prendiamo spunto dai vostri messaggi per parlare anche di segreti, di cose facili da tenere nascoste nel cuore, difficili magari da conservare quando ce li dicono degli amici. Siamo partiti anche da uno spunto suggerito dal nuovo romanzo di Luigi Ballerini, Click, per parlare anche di malattie, proprio malattie che, proprio perché non sono visibili, possono essere tenute nascoste. Ma questo che cosa significa? Perché le teniamo nascoste, dottor Ballerini? Perché evidentemente abbiamo paura del giudizio degli altri, abbiamo paura che raccontando questa malattia la gente ci consideri malato, diverso, magari di perdere il posto di lavoro, di avere delle difficoltà. Dottor Ballerini. Abbiamo paura che gli altri inizino a guardarci con una lente che filtrerà, si metteranno sugli occhiali secondo i quali inizieranno a guardarci in quanto malato, e quindi in qualche modo lo potremmo percepire come una nostra riduzione. È bene anche che, non l'abbiamo ancora affrontato Nicoletta, ma c'è anche la versione contraria, la versione opposta a questo atteggiamento, che invece sono quelli che parlano troppo del proprio stato di malattia. su cui magari invece sarebbe bene anche avere una certa riservatezza. Ecco, la parola secondo me forse vincente è discrezione e riservatezza. Conosco delle persone, ma le abbiamo incontrate tutte, che addirittura della loro malattia ne fanno oggetto di legame. Sì. Quelle che non appena ci incontrano ci raccontano qualche cosa che non va, ci raccontano quanto non stanno bene, quanto sono dentro i problemi. Ora, questo è un altro modo distorto del considerare la propria malattia, perché il rischio è quello di credere che ci farà legame, questo genererà un legame, quindi farà rapporto. In realtà poi, diciamolo, gli altri si stufano di questo. Quindi dire troppo la questione o dire niente, è capire, c'è comunque una via di mezzo. C'è una via di mezzo che è legata a proprio un giudizio di discrezione, nel senso, se parlarti della mia malattia è rilevante in questo momento perché fa conoscere qualcosa di me, te lo dico, ma proprio darti tutti i dettagli dell'iniezione di insulina che devo fare è una roba mia se sono diabetico. Ma in queste due situazioni, in questi due estremi, c'è comunque un denominatore comune, che è una sofferenza, una difficoltà a metabolizzare la presenza di questa compagna di vita, che è una malattia che ci troviamo a fianco senza aver la scelta, con cui dobbiamo imparare a fare i conti, e questo è un processo molto difficile. Abbiamo Totò da Palermo. Totò, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno professore Ballerini. E poi abbiamo subito dopo Bruna da Milano. Totò, siamo a sua disposizione, ci racconti. Oh, grazie cara. Ma ti racconto, io credo che più importante il segreto è importante la persona a cui lo dici. E ci vuole del tempo per trovare la persona a cui lo dici. Io ho la fortuna, perché è davvero una fortuna, di avere un unico grande amico, a cui voglio bene un bell'anima, e sono sicuro anche lui con un bene dell'anima a me. E allora, dopo anni e anni e anni, abbiamo deciso di aprirci e raccontarci i nostri segreti. E questo è importante trovare la persona giusta che possa accogliere il tuo segreto, che possa tenerlo con sé e che possa aiutarti magari così a raccontarlo, a parlarne, insomma, ad aprirti veramente. Ecco. Perché un segreto raccontato alla parola giusta è un segreto che diventa più chiaro a noi, insomma, riusciamo ad avere con questo segreto una relazione diversa, proprio perché è raccontato e anche un po' in qualche modo osservato negli occhi dell'altro. Grazie Totò, che fortunato ho un amico sincero a cui può confidare un segreto. Bisogna scegliergli però questi amici oculatamente, dottor Ballerini. Proprio così, sia Totò sia Clara hanno posto la questione della fiducia, che a me piace trasferire sul piano dell'affidabilità. È un giudizio di affidabilità che noi diamo sull'altro. Allora, dopo un po' di anni, Totò ha valutato, ed è proprio un giudizio che lui ha emesso, che il suo amico fosse uno meritevole e degno di raccogliere il suo segreto, che l'avrebbe trattato bene, l'avrebbe custodito, l'avrebbe aiutato. Allora, questo è un bel esempio di come ci si muove. E quindi nel momento in cui io identifico una o più persone che ritengo affidabili, allora sì che sarà davvero un'occasione di confronto che mi permetterà di crescere e anche di trovare delle soluzioni che magari da solo non riuscirei a intravedere. Abbiamo Bruna, buongiorno, da Milano, eccola qua. Buongiorno, buongiorno. Avete un po' anticipato quello che era la mia riflessione principale, e cioè che nel confidare le cose che possono essere segreti o anche semplicemente dei problemi, delle amarezze o dei problemi di salute che uno può vivere nella sua quotidianità, no? La cosa importante è non trasferire in questa trasmissione di sentimenti l'aspettativa dell'aiuto, sia da parte di chi si confida che dall'altra parte. Cioè, certe volte quello che diceva lei un po' di tempo fa, portare la cesta in due, può semplicemente dire che tu, avendolo detto, lo metabolizzi meglio, ti sei sfogato, sai che quell'altra persona è solidale con te, anche se magari non può fare nulla per aiutarti, perché se sei malato o perché sei un problema, non so, con la tua famiglia e la tua amica mica può intervenire e far nulla per te, però sai che c'è, sai che condivide la tua preoccupazione, e lo sfogarti, non so come dire, è vero Bruna, l'esprimersi già ti fa vedere le cose in un'ottica un po' diversa, te le fa razionalizzare, come proprio dicevate pochissimo tempo fa. E comunque complimenti per la trasmissione, sempre molto bella. Grazie Bruna, grazie di cuore. Dottor Ballerini. Grazie Bruna, mi dà l'occasione anche di di precisare questo, che è un pensiero cui tengo. Dobbiamo stare attenti che il trasmettere un segreto non deve generare pretese, perché adesso che poi te l'ho detto, da questo momento in poi tu automaticamente inizierai a fare qualcosa per me. A volte un segreto, una confidenza che viene fatta può essere anche lasciata lì, no? Adesso io e te lo sappiamo, non necessariamente deve continuare a tornare a tema, non necessariamente tu devi fare qualche cosa per aiutarmi, ma il solo fatto che io e te lo sappiamo e lo lasciamo lì e magari ogni tanto lo guardiamo come con la coda dell'occhio farà bene a entrambi, senza interferire troppo sul nostro rapporto diventandone l'oggetto, e a quel punto sarebbe un po' un pasticcio. Ok, te lo dico, faccio sicuramente un errore. Diciamo che io ho cose... un disturbo? Il mio dottore, uno psicanalista dal quale andavo sempre, dice che nel 50-60% dei casi una pillola può aiutare molto. Io odio le pillole, roba molto pericolosa, le pillole odio, bada bene, uso la parola odio apposta quando parlo di pillole, odio. Jack Nicholson in Qualcosa è cambiato, lo ricordate? Ecco, in quel film, in questo film, lui decide di rivelare il suo disagio psichico alla donna di cui è innamorato e si chiede fino all'ultimo se sia la scelta giusta, e chi si è trovato in una situazione simile sa come ci si può sentire, non solo di fronte alle persone care, alle persone che ci amano, ma anche nella vita di tutti i giorni, incominciando proprio dal luogo di lavoro. Oltre alla propria difficoltà di salute c'è un senso di vergogna che prende, la paura di non essere accettati, di essere visti e trattati da malati, a volte di perdere il posto del lavoro. Come anticipato nella seconda parte della trasmissione, parleremo della privacy sul posto del lavoro, e ci ha già raggiunto il nostro esperto, l'avvocato Giampiero Falasca, giuslavorista. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ed esperto per Il Sole 24 Ore. Avvocato, come viene tutelato il lavoratore se rivela la sua malattia sul posto di lavoro? Quali sono i suoi diritti? Ma fortunatamente il lavoratore ha una tutela molto ampia e molto difficile da, diciamo, da rimuovere, nel senso che il lavoratore che rivela una certa malattia, ovviamente innanzitutto la semplice assenza per malattia non va motivata, cioè il lavoratore non deve dire qual è la sua malattia, per evitare che ci siano delle discriminazioni specifiche. Poi se il lavoratore invece ha una patologia che richiede un adattamento dell'organizzazione aziendale, allora, diciamo, il medico che gli fa la visita e che riscontra questa esigenza ne parla con l'azienda, e l'azienda deve in qualche modo cercare di adattarsi alle caratteristiche della malattia del lavoratore. Questo nei limiti del possibile, diciamo così. La legge non fissa dei paletti rigidi, però in sostanza, ove possibile, l'organizzazione aziendale si deve adattare alle problematiche fisico-psichico del lavoratore. Ma avvocato, mi scusi, ma se un datore di lavoro avesse dei sospetti sullo stato di salute di un dipendente, può prescrivergli una visita medica e il dipendente è tenuto a farla, a mostrare risultati, oppure può opporsi? Ma il datore, secondo me, deve farla per un motivo molto banale, che lui ha l'obbligo di garantire la salute e sicurezza di tutti i propri dipendenti, quindi deve sapere se c'è una persona che affetta da una patologia incompatibile con la guida e il suo dipendente fa il venditore, il commesso, non so, insomma, passa tutta la giornata in macchina, il datore di lavoro, se ha il sentore che ci sia qualcosa, deve mandare il dipendente a visita medica, perché poi deve cambiargli la mansione e deve fare in modo che non metta a rischio la propria incolumità. Quindi non c'è un tema di riservatezza, ma c'è un tema di tutela della salute del dipendente. Allora, noi continueremo a parlare di privacy sul lavoro dopo il GR. Voi raccontateci all'800 24 00 24 se vi siete trovati a comunicare al datore di lavoro una malattia, un'altra informazione molto personale, e diteci se vi siete sentiti accolti, sostenuti, se avete dovuto affrontare delle altre difficoltà. Cuore e denari. Oh, guarda, ci sono Monica e Chandler. Ehi ragazzi, ciao. Oh, Monica e Chandler. Chandler e Monica. Oh mio Dio. Oh, sono Monica e Chandler. Oh mio Dio. I miei occhi, che cosa vedo? Lo so, lui sa, lei non sa, e poi sappiamo con quale velocità le notizie si diffondono. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di segreti, di informazioni che a volte non sappiamo se tenere per noi o condividere anche in merito alla nostra salute. E c'è un ambito, quello lavorativo, in cui la questione è particolarmente delicata, che si tratti del nostro stato di salute, della nostra condizione economica o familiare. A volte noi sentiamo proprio il bisogno di raccontare per sentirci sollevati e anche capiti, ma al tempo stesso abbiamo paura di essere visti in modo diverso, di essere penalizzati nella nostra posizione lavorativa. E la nostra vita non possiamo lasciarla fuori dal posto di lavoro, anche se spesso ci proviamo, e quindi ci raggiunge con momenti di difficoltà o malessere che naturalmente non possiamo nascondere, ma anche con telefonate, messaggi che lasciano traccia, che possono essere notati da chi è vicino, intercettati. Avete vissuto una situazione di questo tipo? Com'è andata? Vi trovate proprio ora ad avere il dubbio sull'opportunità di raccontare qualcosa di voi, o non sapete fino a che punto spingervi? 800 24 00 24. Chissà da quanto erano sposati. Non ne ho idea. Forse da sempre. Tu da quanto? Cosa? Sei sposata? Non sono sposata. Mi pareva di aver capito che fossi sposata. Sì, è vero, sono stata sposata, ma il divorzio è diventato definitivo il mese scorso. Mi dispiace. No, non disturbarti, non è il caso. Lockhart è il tuo cognome o il suo? Il suo, ma l'ho mantenuto perché è l'unica cosa utile che ho ricavato da questa storia. Perché come ti chiamavi prima? Wiczynski. È vero, Lockhart è molto meglio. A volte la curiosità sulla vita personale dei colleghi ci porta a fare domande un pochino più private, o siamo noi stessi a voler raccontare. Ma quando fermarsi e come siamo tutelati sul nostro posto di lavoro se svegliamo qualcosa di noi, anche se involontariamente? Sempre con noi l'avvocato Giampiero Falasca, giuslavorista ed esperto per il Sole 24 Ore. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Stavo pensando che nel brano che abbiamo sentito c'era il datore di lavoro aveva già commesso un illecito, perché non si può assolutamente chiedere se è sposata. Ah no, No, assolutamente, cioè soprattutto in fase preassuntiva, cioè quando si fa il colloquio è assolutamente vietato fare domande, purtroppo però da quello che mi raccontano spesso accade, è assolutamente vietato fare domande sulla vita personale, sulla religione, sull'orientamento sessuale, sullo stato civile, quindi sulle se... intenzioni di fare figli o quant'altro. Ecco, e se ce le fanno uno cosa può rispondere? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, avvocato? O chiamo il mio avvocato? Aspetti lì che bella faccio domanda. Una... Diciamo che se vengo discriminato dopo aver subito quelle domande e non sono assunto, se diciamo ho qualche modo per provare che c'è stata una discriminazione, io potrei intentare una causa all'azienda. È ovvio che è un percorso di difficoltà. Molto mi sembra difficile. Molto però intanto le aziende si dovrebbero educare e capire che queste domande non si fanno. Mm. Ecco. Allora, intanto invece voi le domande potete farle al nostro numero verde 800 24 00 24, mi stavo strozzando perché abbiamo l'avvocato Falasca ed è rimasto con noi anche il dottor Ballerini. E intanto andiamo a Paola che ci chiama dalla provincia di Sondrio. Buongiorno Paola. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. La mia storia, io a novembre, il 13 novembre dello scorso anno, ho scoperto durante uno screening normale per un sintomo che avevo un tumore al rene sinistro. Il mio sconcerto ve lo lascio immaginare. Sì. Sono rientrata sul posto di lavoro, il mio datore di lavoro mi chiama per un qualsiasi motivo, io scoppio a piangere, lui si precipita, io nel frattempo sono andata via dall'ufficio. Sta di fatto che il mio contratto sarebbe scaduto il 21 dello stesso mese. Lui mi ha supportata, mi ha chiesto se poteva fare qualsiasi cosa per me, ha cercato di prolungare il mio contratto di lavoro, ma io sarei stata a completo carico del datore di lavoro essendo inquadrata come impiegata, e quindi purtroppo lui non poteva sostenere, pur con la più buona volontà, tutto il peso della mia malattia, come giustamente sarebbe stato, insomma, cioè non si può pesare sulle spalle del prossimo in questo modo. Però così facendo il mio contratto è scaduto, io sono a casa senza lavoro, perché a 54 anni, sapete perfettamente, io vi ascolto sempre, non è facile. Non è facile, ma non è importante. Paola, però pensiamo, e qua chiedo aiuto al dottor Ballerini, perché... so che può dare una parola in più, un'indicazione. Non è facile, ma non è impossibile. possibile. Noi dobbiamo partire da questa cosa qua, Paola, perché certo, sennò... ma guarda che io ho fatto colloqui, io adesso sto bene, cioè devo dire, mi sento veramente miracolata, e se continuerà così lo sarò per il resto della mia vita. Però io ho fatto dei colloqui, le mie competenze sono troppo alte, vengono scelte altre persone, probabilmente più giovani, meno formate, che possibilmente sono anche più malleabili, perché è vero, cioè con l'età si diventa, ci si irrigidisce, magari a nostro malgrado, insomma, ci si irrigidisce un po' di più. Però questo è, io non demordo assolutamente. Brava Paola, tenga duro. Intanto sentiamo dall'avvocato Falasca se può dare un consiglio, un commento alla storia di Paola. Purtroppo la storia è stata raccontata correttamente, e diciamo che il datore di lavoro non mi sembra che abbia messo in atto un comportamento discriminatorio, diciamo, scadeva il contratto e ha fatto quello che poteva. Diciamo che in generale questo tipo di notizie, io il consiglio che posso dare, vanno date al momento giusto e senza anticipare troppo i tempi, però mi rendo conto, insomma, che non è facile, è più facile suggerirlo che farlo quando ci riguarda in prima persona, diciamo. Non bisogna avere fretta di comunicare le proprie malattie e i propri problemi fisici, perché comunque un po' di impatto possono averlo. Non dobbiamo avere fretta, dottor Ballerini. Sì, in generale non dobbiamo avere fretta, è davvero una cattiva consigliera. Ha a che fare con quella prudenza che è bene esercitare, per cui col datore di lavoro ma anche con gli altri. L'idea del prendersi del tempo e anche per chiarirsi le idee e sapere cosa comunicarlo, soprattutto come comunicarlo, se è qualcosa che noi riusciamo a mettere in atto, certamente ci renderà più facile e più adeguata la comunicazione al tempo opportuno. Prima di parlare di internet, di posta elettronica, di telefonate, di pedinamenti, dare voce naturalmente leggendo anche i messaggi degli ascoltatori, ad esempio Andrea Bologna mi scrive se un dipendente venditore può essere pedinato per verifiche lavorative. Avvocato Falasca? Sì, se c'è il sospetto da parte del datore di lavoro che sia commesso un illecito o che ci sia una malattia non veritiero o quant'altro, il dipendente può essere pedinato. C'è questo generico convincimento che non sia possibile, ma in realtà la giurisprudenza a tempo ha ritenute legittime le indagini svolte mediante ovviamente investigatori privati e svolte in presenza di un sospetto di illecito. Diciamo, non ci può essere un pedinamento costante, continuo, reiterato nei confronti della singola persona, ma se c'è, però, devo verificare una lunga malattia, devo verificare un permesso oppure una possibile concorrenza sleale, allora in quel caso è possibile usare pedinamento e sono utilizzabili le foto e le registrazioni fatte. Quindi, infatti, nei processi del lavoro funziona questo come prova? Sì, certo. Sì, gli investigatori privati sono dei protagonisti importanti, insieme, poi ne parliamo dopo, alle email e quant'altro. Ecco, tra poco parleremo di email, di telefonate, del cellulare aziendale, ma volevo chiudere un po' il capitolo della malattia sul lavoro, pensando alle categorie protette, quei lavoratori che vengono assunti in base a una legge che, promuovendo l'inserimento, l'integrazione lavorativa delle persone in situazione di handicap mediante l'ausilio di servizi, di sostegno e collocamento mirato, quali sono, avvocato, alle tipologie di lavoratori che rientrano in questa categoria, e deve essere esplicitato sempre che la loro assunzione è avvenuta per via di questa legge, di questa normativa? Sì, nel senso che la normativa di riferimento è la legge 68 del 99, che purtroppo ha promesso un qualcosa che poi nella realtà non si è realizzato fino in fondo. Cioè, la normativa dice che per una serie di categorie, che appunto chiamiamo genericamente categorie protette, c'è l'obbligo per il datore di lavoro di assumerne un numero rilevante in proporzione ai dipendenti, no? Più sono i dipendenti. E poi ci sono due macro categorie, ci sono i disabili, che sono appunto o invalidi civili che superano una certa soglia, il 46%, invalidi del lavoro, non vedenti, non udenti e così via. E poi ci sono altre categorie specifiche, quali gli orfani di guerra, i soggetti equiparati, poi cose ormai un po' vecchie, come i profughi italiani rimpatriati, orfani o figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizi e così via. È molto ampia la platea, diciamo che la legge si chiamava sul collocamento mirato. Sì. E la grande ambizione di questa legge era individuare persone con difficoltà occupazionali e, diciamo, con una forzatura necessaria, cioè l'obbligo per le aziende di assumere una quota, favorirne l'inserimento lavorativo. Purtroppo ad oggi la grande ambizione di quella legge è sconfitta, cioè ad oggi il collocamento mirato non funziona. Secondo il disegno, le aziende lo vivono come un appesantimento burocratico, gli uffici competenti non sono capaci di rinforzare. Nessuno è contento, insomma, sono tutti scontenti. Ad oggi è una grande burocrazia, poi ovviamente sono tanti, io sono necessariamente devo generalizzare, ovviamente sono tantissimi casi di successo in cui invece ha funzionato, però nel suo complesso non possiamo dire di avere un sistema di collocamento mirato che funziona. Allora, lasciamo da parte l'ambito della salute, restiamo sulla privacy, abbiamo detto che la nostra vita privata spesso entra anche nel nostro posto di lavoro e spesso lo fa come? Attraverso il computer, le nostre mail. Il datore di lavoro può leggere la posta elettronica aziendale, utilizzare le informazioni contenute? Secondo voi può? L'ha fatto? Temete? 800 24 00 24. Prima diamo la parola a Paolo da Roma e poi sentiamo dall'avvocato Falasca come ci possiamo comportare, ma mi piacerebbe anche capire un po' un cotè psico dal dottor Balerini. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Senta, vi chiamo per una curiosità che ho sempre avuto. Io lavoro in una grande azienda e ho un telefono aziendale. Voglio sapere, il datore di lavoro può, tramite, non so, l'operatore telefonico a cui si appoggia, sapere i miei movimenti in ogni minuto, dove sono, anche nel tempo libero, evidentemente, oltre che il tempo dedicato al lavoro, quindi sapere tutti i miei spostamenti. Sì, ma perché, ma Paolo, ma perché dovrebbe essere interessato la sua azienda a sapere cosa fa lei nel tempo libero? Per una questione di privacy, si parlava di questo, quindi volevo sapere. No, ma pensavo così, cosa l'aveva acceso questa lampadina. Chiediamo all'avvocato Falasca. Avvocato, Paolo, temi? Sì, mi è chiaro. No, la risposta è no, cioè il datore di lavoro non può farsi gli affari di Paolo e sapere dove va Paolo, perché il tema qual è? Che tutti i telefoni ormai sono dei ricevitori satellitari e quindi tutti determinano un controllo a distanza degli spostamenti, quindi innanzitutto l'utilizzo di questi apparecchi deve essere autorizzato dalla direzione del lavoro o dalle organizzazioni sindacali. Il controllo deve essere indiretto, cioè è un'apparecchiatura che c'è ma l'azienda ne farebbe volentieri a meno, e comunque non è possibile tramite questi strumenti controllare gli spostamenti, tant'è vero che non sono neanche utilizzabili le eventuali informazioni acquisite in questo modo. Ah, non sono diverso, utilizzabili? Esatto, diverso è il caso dei controlli delle mail, se volete ne parliamo dopo. Certo, insomma, entriamo. Dottor Balerini, però vedi che c'è sempre questo grande, il lavoratore, noi abbiamo tutti, no? Un po' l'idea di questo grande occhio che ci guarda. Sì, bisogna sempre stare un po' attenti quando abbiamo questi timori. Che poi di solito non sono solo rispetto al datore di lavoro, ma sono dei sospetti che possono venirci anche più in generale. Ma io la direi così: un soggetto che sta bene non dovrebbe temere nulla. Intendo dire, se la mia azienda vuole sapere che cosa faccio nel tempo libero, non ha bisogno di spiarmelo, glielo posso anche dire anch'io. Certo. Poi sarà la valutazione dell'opportunità, cosa gli interessa, me lo tengo per me, non deve riguardarli, ma la paura che possano scoprire qualche cosa che non va è eccessiva se non abbiamo davvero nulla da nascondere. Quindi io direi che in generale tanto meno abbiamo da nascondere o da avere questo tipo di paure, tanto meglio stiamo. Diverso è il discorso sull'opportunità, che effettivamente uno può dire, vabbè, ma scusate, che cosa interessa? Ma devo dire che meno teniamo nascoste delle cose, ad esempio, e poi l'ingenuità, non possiamo essere ingenui, cioè nel momento in cui, poi mi lo dirà anche l'avvocato, noi usiamo uno strumento aziendale, è uno strumento aziendale, per cui non è che possiamo poi fare gli ingenui e dire, mi hanno scoperto. Per cui c'è anche una, peraltro mi risulta che anche le aziende poi diano anche dei codici di utilizzo e di comportamento rispetto a questo. Per cui io direi, mettiamoci nella condizione di non temere niente. Poi le tutele che possiamo farci saranno i casi in cui qualcun altro dall'altra parte esagera, e allora ci difenderemo, ma non scopriamo il fianco noi in primis. Intanto noi abbiamo l'avvocato. Avvocato, andiamo su internet, posta elettronica, siti, lì. Questo è incredibile, guardi, oggi più della metà delle, ma forse direi anche il 75% delle cause di lavoro hanno un bel fascicolo con la stampata dell'email. Cioè, noi non ci rendiamo conto che ogni singola lettera che digitiamo sul computer è ormai scritta per sempre, scolpita per sempre nella mail, che è più resistente della pietra. Allora, il dottore prima ha citato un elemento importantissimo, i codici di condotta. Cioè, secondo il garante della privacy, la posta elettronica e poi anche internet sono strumenti aziendali, la connessione internet alla posta elettronica. Quindi il datore di lavoro li può utilizzare, li può verificare a due condizioni. Il primo, che abbia tolto la cosiddetta aspettativa di segretezza, cioè il dipendente deve essere stato informato all'inizio dell'utilizzo della mail che quello è uno strumento aziendale e che quindi ci potrebbero essere dei controlli. E poi la seconda condizione è che questi controlli devono essere pertinenti e proporzionati al caso. Quindi, come l'esempio di prima dell'investigatore privato, non posso mettere un grande occhio che legge dalla mattina alla sera tutte le mail. Ma posso, se vengo a sapere che il mio, faccio un caso che si ripete ogni giorno, il mio addetto commerciale ha scaricato un numero sproporzionato di giga dall'intranet aziendale, devo capire se per caso sta cedendo informazioni a terzi, allora faccio l'accesso sulla posta elettronica. Però spesso ci si copre dietro questo concetto di privacy, in realtà, forse avete anche già detto, ma la legge italiana non parla mai di privacy. C'è l'esigenza di controllare il trattamento dei dati, cioè i dati personali non sono dati che non possono essere conosciuti, ma che possono circolare solo per certe finalità e in certi casi. In questo caso non c'è privacy che tenga. La posta aziendale è uno strumento aziendale che è utilizzato per commettere illeciti, quindi stiamo attenti, cioè usiamo sempre un account di posta personale per le questioni personali, perché poi è difficile dire che non potevi entrare nel mio computer. Quello è uno strumento, il dominio è azienda.it, e già da là si capisce, non è uno strumento aziendale. È chiarissimo, avvocato. Insomma, quando scriviamo una mail è come se avessimo il nostro capo, il nostro datore di lavoro a fianco, che legge quello che stiamo scrivendo. Avvocato Falasca, tra l'altro autore di Divieto di assumere, cambiare le regole per rilanciare il lavoro, Edizioni Lavoro, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Dottor Ballerini, Click, l'abbiamo presentato, ne abbiamo parlato, un romanzo, il nuovo romanzo di Dottor Ballerini, edizione L, buona fortuna. Grazie.